Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Berlusconi torna a Napoli per fermare la protesta di Chiaiano, non a visita per il piano rifiuti. Tocca al Senato americano oggi votare il piano Bush per la crisi dei mutui. Voteranno Obama e McCain. La mia storia è vera, così ribadisce lo studente ghanese che a Parma ha raccontato di essere stato picchiato. I vigili negano. Mezzo strappo della CGIL sui contratti. Epifani, trattativa finita ma resto al tavolo. Confindustria replica, valuteremo se andare avanti solo con gli altri. Catania salva, arrivano i fondi per evitare la bancarotta, gli altri comuni italiani chiedono i soldi dell'ICI. Il 36% di incidenti in meno sull'autostrada A4 tra Milano e Bergamo, la buona notizia dell'effetto quarta corsia. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, questa è la nona volta di Berlusconi a Napoli, proprio mentre, come sapete, in questi giorni è riesplosa la protesta a Chiaiano contro la discarica. E il premier è nella città partenopea per fare nuovamente il punto sulla questione rifiuti. Per noi c'è Enzo Danna. Sì, buongiorno. È arrivato intorno alle 11 a Capodichino e poco meno di un'ora fa qui al Palazzo della Prefettura in Piazza del Plebiscito. Farà il punto della situazione sulla realizzazione del termovalorizzatore e più in generale sulla annosa questione dell'emergenza rifiuti. A proposito di termovalorizzatori, bisognerà probabilmente stabilire con esattezza i tempi. Quello di Acerra dovrebbe entrare in funzione già all'inizio dell'anno. Arriva in Campania, come dicevate, da studio in una regione infuocata. Al di là della guerra di Camorra in atto nel Casertano, proprio ieri c'è stata la maxi operazione contro il clan dei Casalesi, c'è la questione Chiaiano, la spinosa questione Chiaiano. Il quartiere è in subbuglio e si prepara ad una nuova battaglia contro l'allestimento della discarica in una cava. I comitati civici hanno dato appuntamento qui alle 14:30, raggiungeranno appunto Piazza del Plebiscito, dove ci sono sia la prefettura che Palazzo Salerno. Quest'ultima sede ospiterà alle 16 la conferenza stampa conclusiva del Presidente del Consiglio e ci sarà da vedere appunto se ci saranno particolari tensioni con l'arrivo appunto dei manifestanti da Chiaiano. Se non avete domande da studio, io vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna. Naturalmente, se invece ci saranno notizie anche nel corso di Extra Large, torneremo a Napoli poi nel corso della giornata con l'edizione di GR24. E intanto a Caserta è volato il ministro della difesa, la Russa, per salutare i militari che saranno impegnati contro la Camorra. Saranno operativi a partire da sabato, infatti manca ancora la firma da parte del Quirinale al decreto. E intanto così il saluto del ministro della difesa questa mattina sul piazzale della Reggia di Caserta ai militari. Sentiamo. Ringrazio gli ufficiali per aver predisposto questo incontro a partire. Non ho da farvi i discorsi, sono venuto solo per stare qualche minuto insieme a voi, per condividere il vostro impegno, la vostra professionalità, il vostro attaccamento al senso del dovere. Dalla Campania a Parma, dove sono tre le indagini aperte sulla vicenda dello studente ghanese che ha denunciato ai carabinieri di essere stato picchiato e insultato con frasi a sfondo razzista da 7 agenti della Polizia Municipale di Parma. Si stanno occupando del caso la Procura di Parma, l'Assessorato Comunale alla Sicurezza con un'inchiesta interna e anche l'Ufficio Antidiscriminazioni del Ministero delle Pari Opportunità. È la ricostruzione dei fatti. Lunedì sera Emmanuel Bonsu Foster, 22 anni, volontario in una comunità antidroga, è stato fermato dai vigili che lo hanno scambiato per uno spacciatore in un parco vicino alla scuola serale che lui frequenta normalmente. Portato al comando della Polizia Municipale, è stato rilasciato dopo 5 ore con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ecco invece come lui racconta la vicenda al microfono di Maria Luisa Pezzali. Ho visto uno che veniva indietro, quando mi sono girato mi ha preso per le mani, ha detto fermati, fermati. Mi sono spaventata, allora ho cominciato a correre. Mi hanno seguito, poi sono venuti, non so, 3 o 4 persone, una con la pistola che mi seguiva. Mi hanno preso, messo a terra, mi hanno dato un po' di calci, poi quello lì che aveva la pistola ha messo la, i piedi sulla mia testa, uno ha preso la mia mano, mi ha un po' strisciato avanti, si vede che ho una macchia sulla, sul fronte. Poi mi hanno arrestato, mi hanno messo dentro una macchina bianca. Anche da lì c'era un tipo che mi dava dei schiaffi, dei pugni, insulti. Beh, mi hanno portato dentro, come si chiama, la loro base. E lì mi hanno fatto spogliare tutto, poi mi hanno fatto rivestire. Mi hanno obbligato a filmare dei documenti che io non volevo filmare, però mi hanno picchiato, ho voluto filmare questo documento. Con una bottiglia mezza piena di acqua hanno usato per picchiarmi nella testa. Non mi hanno anche spiegato perché mi hanno picchiato così. Solo mi hanno dato la busta che hanno scritto il mio nome, anche sbagliando, aggiungendo negro. Tutto qua. Così il racconto al microfono di Maria Luisa Pezzali. C'è da aggiungere che il primo cittadino di Parma difende i vigili urbani e anch'essi smentiscono tutto. Così la comandante Emma Monguidi al microfono di Paolo Panceri. Ha più volte opposto resistenza, ha cercato di divincolarsi, è caduto a terra sbattendo la faccia vicino anche al cordolo di un marciapiede, quindi in quel frangente anche lui si è comunque fatto male. La busta del comune di Parma gli è stata consegnata nei momenti in cui gli sono stati restituiti i suoi effetti personali. La scritta sopra non l'abbiamo ovviamente fatta noi, non sappiamo quale sia l'autore. Ecco. Noi smentiamo su tutti i fronti che al ragazzo siano state comunque inflitte violenze, che siano stati inflitti insulti e che non sia stato trattato secondo quella che è il rispetto delle persone e la dignità della persona. Voltiamo pagina, ci occupiamo della crisi dei mutui. Il presidente americano Bush adesso ci riprova. Dopo il nuovo appello al Congresso, toccherà oggi infatti al Senato americano votare questa sera il piano di salvataggio del sistema finanziario, piano da 700 miliardi di dollari. Il voto è particolarmente interessante anche perché vi prenderanno parte i due senatori candidati alla Casa Bianca, Barack Obama e John McCain. Un nuovo voto della Camera non è ancora in programma, invece, prima di domani. La ripresa delle trattative ha ridato slancio comunque ai mercati americani, meno per la verità a quelli europei. Le borse europee hanno virato al ribasso dopo una mattinata in lieve rialzo. Piazza Affari è arrivata fino a perdere attorno al 0,5%. Sentiremo più avanti gli aggiornamenti in diretta. E sulla questione Unicredit, oggi sono fonti del gruppo a smentire le dimissioni dell'amministratore delegato Alessandro Profumo. La vignetta sul giornale a proposito di questa vicenda, c'è un Bush con un braccio teso e un cappello da texano rovesciato, l'appello di Bush al Congresso, ed evidentemente è un appello di chi sta cercando di raccogliere tutti gli spiccioli e anche qualcosa di più. Qualunque cosa venga dato. Ma come dicevamo, oggi dovranno votare intanto il piano Bush proprio Obama e McCain, e quest'ultimo, se eletto, porterebbe con sé un personaggio che molto ha a che fare con la crisi di oggi. Su una cosa concordano praticamente tutti: la più grave crisi finanziaria dal 1929 a oggi è il risultato della politica di deregolamentazione adottata dagli Stati Uniti nell'ultimo decennio. Adesso spetterà al presidente che verrà eletto il prossimo 4 novembre il compito di raccogliere i cocci e ricostruire un sistema di vigilanza. L'ironia è che se vincesse il candidato repubblicano John McCain a dirigere il tesoro e quindi a gestire la crisi, potrebbe andare proprio l'uomo che forse ne ha le maggiori responsabilità politiche. Parliamo dell'ex senatore repubblicano Phil Graham, oggi consulente economico di McCain. 10 anni fa, in qualità di presidente della Commissione Banche del Senato, Graham fu il principale artefice della deregulation voluta da Wall Street. Fu lui a far approvare prima la riforma del sistema bancario e poi un emendamento sul trading dei prodotti finanziari oggi al centro della crisi, i cosiddetti swap. Due misure che praticamente azzerarono le attività di vigilanza in quei mercati. Come ringraziamento, Graham ricevette da Wall Street finanziamenti elettorali per oltre 4 milioni e mezzo di dollari. Claudio Gatti, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Su Filgram dunque si concentrano le attenzioni della stampa in questo momento e continua anche il filo teso con l'Europa, perché sabato si riuniranno i quattro paesi europei membri del G8 convocati dal presidente francese Sarkozy, presidente di turno dell'Unione. E, poco fa il presidente della Commissione Manuel Barroso ha detto di confidare che gli Stati Uniti dimostrino il senso dello Stato che serve ora per la loro salvezza e anche quella per del resto del mondo. E poi ci sono dichiarazioni di questa mattina anche del Presidente del Consiglio Berlusconi, che come abbiamo detto è a Napoli per la questione rifiuti. Berlusconi ha detto: non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche, e poi ha rassicurato: gli italiani non perderanno i loro soldi, ha detto Berlusconi. La vicenda Parmalat in Italia ha anticipato quel che sta accadendo ora. Di questo tono è però intanto la requisitoria a Milano dei PM del processo milanese per la vicenda Parmalat, per l'accusa di aggiottaggio sul titolo. Oggi, seconda giornata dedicata all'accusa. Come sta proseguendo la requisitoria, Raffaella Calandra? Sì, buongiorno. Parmalat, come ora Lehman Brothers, come l'amministratore delegato della banca d'affari americana, solo il 27 marzo smentiva le voci allarmistiche che circolavano, e ora il colosso è fallito. Così anche di Parmalat avverte il PM Eugenio Fusco: si era creata un'immagine virtuale, simulata e falsa. È una requisitoria contro l'ex patron di Collecchio, Callisto Tanzi, e altri sette imputati per l'aggiotaggio relativo al crack da 14 miliardi di euro, ma i paralleli e i rimandi tra comunicazioni e falsi di 5 anni fa e l'attuale crisi internazionale sono continui. Oggi come allora ci troviamo di fronte ad un inganno globale con una potenzialità del falso senza limiti e senza frontiere, ricostruisce il rappresentante dell'accusa, che mette in guardia dagli tsunami finanziari generati dalla disinformazione globale in Italia allora come oggi negli Stati Uniti. Cita scandali come la Enron, il PM Fusco ricorda le pene esemplari, eppure avverte: ci siamo ritrovati con i subprime e i fallimenti. Il PM punta il dito contro i sistemi di controllo, ripercorre le tappe che avevano portato la Parmalat a ratificare almeno formalmente tutte le norme di vigilanza per avere un'immagine all'avanguardia, e conclude che giustamente il reato di aggiotare sconosciuto fino a pochi anni fa, ora ha una pena fino a 12 anni. Dopo 2 giorni di requisitoria spetterà poi all'aggiunto Francesco Greco il 6 ottobre concludere e formulare le richieste per Tanzi e i 7 coimputati. E per ora dal Tribunale di Milano è tutto. E non la crisi dei mercati finanziari, ma una più semplice crisi di liquidità l'hanno scampata intanto la Regione Lazio, che ieri ha trovato l'accordo per rientrare dai debiti della sanità proprio all'ultimo giorno utile, e anche i comuni di Roma e Catania, in soccorso dei quali sono arrivati soldi a fondo perduto. Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia, l'aveva detto. Il premier Silvio Berlusconi non avrebbe dimenticato Catania, e non l'ha fatto. Ieri il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che dipende da Palazzo Chigi, ha disposto un finanziamento a fondo perduto di 140 milioni di euro in favore di Catania, sull'orlo del dissesto finanziario. Il sindaco del capoluogo etneo, Raffaele Stancarelli, che eredita dal medico di Berlusconi Scapagnini il pesante buco di bilancio, ha avuto molto di più di ciò che aveva chiesto. Sperava in un anticipo di cassa, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto. Potrà così, se non evitare il crack, almeno pagare gli stipendi del personale, come quello dei Neturbini, che non ricevono la busta paga da agosto e ora minacciano lo sciopero. Contemporaneamente, 65 dirigenti del comune si sono autoassegnati un premio produzione. Oltre a Catania, il CIPE ha destinato un finanziamento di 500 milioni di euro, sempre a fondo perduto, alla capitale, anche in questo caso per ripianare il debito della città. Entrambe le somme arrivano dal fondo del CIPE per le aree svantaggiate, che dovrebbe servire a costruire infrastrutture, progetti di sviluppo energetico ed economico. A Catania e Roma, invece, non serviranno a costruire nuove strade o sistemare le scuole, ma a ripianare i debiti. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Parleremo ancora più avanti dei comuni, di tutti i comuni italiani che attendono ancora il rimborso dell'ICI. Lo faremo nell'intervista dopo la pausa. Parleremo anche di federalismo fiscale. Intanto però a Roma restiamo, perché proprio a Roma poco fa è stato presentato il programma della Festa del Cinema, naturalmente nuova gestione, e allora ci racconta tutto Chiara Di Michele. Sì, buongiorno, sono qui all'Auditorium Parco della Musica. La terza edizione del Festival Internazionale del Film di Roma porrà l'accento sul cinema italiano. La kermesse romana, che si terrà dal 22 al 30 ottobre, si aprirà con un film di Maria Sole Tognazzi e chiuderà con L'ultimo Pulcinella di Maurizio Scaparro. Ci saranno naturalmente anche pellicole straniere, nonché un incontro con Al Pacino. Ci sarà una sola selezione ufficiale ed un filo conduttore che riguarda le famiglie del cinema italiano, dalla famiglia De Sica a Rossellini e Tognazzi. Ci saranno poi collegamenti anche con Manfredi. Infine una mossa per ricordare Dino Risi. Per ricordare Dino Risi e il presidente del festival Gianluigi Rondi ha messo in evidenza anche la mostra C'era una volta il 48, una data importante, sottolinea Rondi, perché ha visto firmare la nostra Costituzione. Un altro appuntamento importante sono gli Stati Generali del Cinema Italiano, un convegno che ha lo scopo di vagliare insieme alle categorie del settore, al mondo delle imprese e alle istituzioni, delle linee guida da suggerire al governo. Dall'Auditorium Parco della Musica è tutto, a voi la linea. Grazie Chiara Di Michele. 13:19 minuti, GR Extra Large, i titoli. Berlusconi torna a Napoli per fermare la protesta di Chiaiano, non a visita per il piano rifiuti. Borse europee contrastate in attesa del voto di oggi al Senato degli Stati Uniti sul pacchetto anticrisi. In Europa Sarkozy convoca per sabato i paesi europei che fanno parte del G8. È polemica sul comune di Parma dopo che uno studente ghanese ha denunciato i vigili per presunte percosse e insulti. Il sindaco difende i vigili urbani che smentiscono le accuse, ma il ragazzo insiste: sono stato scambiato per un pusher, mi hanno picchiato e insultato, ha detto anche a Radio 24. Contratti, Epifani, trattativa finita ma resto al tavolo. Confindustria replica, valuteremo se andare avanti solo con gli altri. E parliamo proprio del tema della trattativa per la riforma dei contratti. Si sono rivisti oggi, dopo una lunga pausa, Confindustria e sindacati, CGIL, CISL e UIL, ma sulla ripresa dei colloqui pesa naturalmente lo stop ieri della CGIL e del segretario Epifani. Vincenzo Miglietta, com'è andato l'incontro di oggi? Sì, buongiorno. Fumata nera oggi al termine del nuovo incontro tra Confindustria e sindacati sulla riforma del modello contrattuale. L'ultimo testo messo a punto dagli industriali sulla base di un precedente memorandum elaborato da CGIL e CISL e UIL è stato infatti bocciato proprio dalla confederazione guidata da Guglielmo Epifani. Era questa una cosa prevista? Già ieri Epifani aveva detto che il tavolo con Confindustria sulla riforma del modello contrattuale aveva esaurito il suo significato. Le parti a questo punto torneranno comunque ad incontrarsi il prossimo 10 ottobre. Quel giorno, com'è probabile, potrebbe arrivare la firma oltre degli industriali, delle sole UIL e CISL. Decisamente contrariati i vertici di Viale dell'Astronomia, non accettiamo veti dalla CGIL, ha affermato il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Sentiamo. Noi oggi abbiamo presentato una nuova, una serie di aperture importanti rispetto alla nostra precedente posizione, è stato molto apprezzato da CISL e UIL che sostanzialmente sono d'accordo con noi, è stata di nuovo bocciata dalla CGIL. A questo punto la CGIL vuole di fatto un ritorno alla scala mobile che è incompatibile con l'Europa, vuole una situazione di non regole nella contrattazione che per noi è inaccettabile, una sorta di Far West, dice che noi con questa proposta vogliamo pagare meno i lavoratori, non è affatto vero, è vero esattamente il contrario, perché invece noi vogliamo poter valorizzare il contratto aziendale, anche perché oggi con la detassazione i soldi dati a livello aziendale valgono il 20% in più rispetto a quelli a livello nazionale, quindi questa posizione non è accettabile per noi, oltretutto siamo in un momento tale di crisi finanziaria e economica che veramente chiudersi in questa posizione è veramente una cosa non accettabile. Queste le parole di Emma Marcegaglia, fino all'ultimo ha replicato Epifani: non ci alzeremo dal tavolo ma per noi la trattativa è finita. Ascoltiamo allora i perché del leader della CGIL. Quindi la nostra è una proposta proprio di responsabilità, le nostre critiche sono critiche che hanno un contenuto di responsabilità per non rendere da una parte ancora più svantaggiate le condizioni di reddito di chi lavora e dall'altro di rassicurare le persone in una fase in cui l'inflazione cresce e l'andamento dei prodotti internazionali è quello che è. Quindi io credo che noi abbiamo ragione a tenere questa linea che confermiamo e quindi su questo segneremo il nostro orientamento. Per finirla, vogliamo una riforma del sistema contrattuale, non la ritroviamo in queste proposte, vogliamo un secondo livello contrattuale più forte, non lo troviamo, vogliamo un primo livello che non programmi la riduzione dei salari, e non la troviamo, e quindi per questo resta la critica generale alla proposta di Confindustria. Queste le ragioni del no della CGIL, soddisfatte invece CISL e UIL. Per Bonanni c'è stato un avanzamento molto forte, di incontro proficuo ha parlato Angeletti della UIL. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. In queste ore, come abbiamo anticipato, in arrivo c'è il progetto del ministro Calderoli sul federalismo fiscale. Gli enti locali, come sappiamo, manterranno a sé un maggior gettito fiscale rispetto al passato e con queste risorse garantiranno i servizi sul territorio, scuole, infrastrutture, ospedali. Ma su questa strada c'è anche un problema da risolvere, riguarda i comuni italiani a cui non sono stati ancora rimborsati alcuni tagli finanziari. Primi di tutti, lo ricorderete, il taglio dell'ICI. Vogliamo capire a che punto è questa vicenda con Giulio Marini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parlamentare a voi. Del Popolo della Libertà, naturalmente sindaco di Viterbo e membro del Consiglio Nazionale dell'ANCI, l'associazione che raccoglie i comuni italiani. Sindaco, ieri l'ANCI è uscito con un documento in cui si diceva: se non si risolve questa questione dei rimborsi che spettano i comuni, beh, non ci sediamo nemmeno al tavolo per il federalismo fiscale. Ci vuole però spiegare esattamente qual è questo problema che è ancora aperto? Io credo che il problema sia in via di risoluzione, perché il ministro Maroni 10 giorni fa, all'incontro che è stato fatto presso il Ministero dell'Interno, è stato molto chiaro nella volontà del governo quello di dare piena disponibilità di fondi per la promessa che è stata fatta dal governo Berlusconi, quindi naturalmente non far perdere risorse ai comuni, naturalmente immaginando anche che il futuro sarà un futuro abbastanza complesso, e quindi naturalmente non possiamo assolutamente perdere quelle che erano risorse prestabilite. Quindi naturalmente piena disponibilità del ministro Maroni di recuperare tutte le somme che erano necessarie per il taglio dell'ICI. In soldoni quanto manca dai bilanci dei comuni per i tagli? Parliamo di 3.100.000 euro che naturalmente dovranno essere certificati da parte dei comuni, quindi naturalmente a livello di previsione servivano questi 3.100.000 euro, naturalmente adesso vanno certificati da parte dei comuni che siano veritieri quelle certificazioni che erano state messe in previsione. Senta, se questi soldi, ma naturalmente ci auguriamo che arrivano e sembra che stiano arrivando, però se non dovessero arrivare, ci sono comuni che rischiano di indebitarsi? Tra l'altro la cronaca in questi giorni, anche se per ragioni diverse, ci parla di molti comuni in difficoltà con le risorse. La situazione dei comuni è sicuramente molto, ma molto rischiosa. Se non dovessero mantenere le previsioni, naturalmente sarebbe una battaglia, quindi naturalmente lascerebbe sul campo morti e feriti. Io non credo che sia la previsione del governo, perché naturalmente nel prossimo triennio non saranno momenti facili da parte dei comuni, quindi naturalmente sarebbe anticipare una situazione molto drammatica e catastrofica. Lei è un sindaco di centrodestra, ma su questo bisognerà trovare poi un accordo bipartisan. C'è modo di trovare accordo bipartisan secondo lei sul federalismo fiscale? Solo oggi le parole di D'Alema sono state abbastanza critiche, ancora oggi. Sì, naturalmente la situazione non è che guarda solo il centrodestra, qui guarda gli 8.000 comuni italiani, e quindi naturalmente guarda anche un principio cardine, quello della sussidiarietà, dove noi naturalmente come centrodestra anche poniamo un valido baluardo, quindi naturalmente il passaggio che ci dovrà essere con il federalismo fiscale dovrà essere un passaggio soft, non può essere in un anno un passaggio che possa mettere in difficoltà 8.000 comuni. Io le dico tranquillamente, sono molto fiducioso perché il ministro Maroni è stato molto chiaro e molto preciso nell'affrontare questo argomento. Bene, grazie allora Giulio Marini, sindaco di Viterbo, che per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, sentivamo sullo sfondo i lavori dell'Aula naturalmente, perché il sindaco è anche un parlamentare, quindi era all'interno dei lavori parlamentari. Adesso però è il momento. Abbiamo parlato di cinema, parliamo anche di musica e del Festival Internazionale di Musica Contemporanea nell'ambito della Biennale di Venezia, da oggi fino al 18 ottobre, 77 compositori per 34 concerti e poi naturalmente incontri e seminari per tutti i gusti. Radici Futuro è il titolo scelto dal neodirettore Luca Francesco, ossia giovani autori e inediti inediti giovani autori, oppure anche autori più consolidati affiancati appunto dai grandi maestri. Sentiamo il neodirettore Luca Francesconi al microfono di Adriana Fracchia. Quello che mi sembra interessante capire la qualità, un discorso sulla qualità oltre le etichette. Viviamo in un mondo che è completamente sopraffatto, sommerso da una quantità di informazioni che non hanno qualità ma hanno quantità, per cui riuscire a, come dire, a isolare e a discernere ancora una volta la qualità è diventato difficilissimo persino per gli addetti ai lavori. Figuriamoci le persone che hanno tutt'altro da fare, tornano a casa la sera e non hanno la possibilità né le forze fisiche forse per trovare degli utensili per scegliere, e questo fatto ha in un certo senso appiattito tutte le cose in un magma indistinto. Io invece penso che ci siano ancora delle cose da sottolineare e che invece sono sottovalutate in questo momento. Dunque ecco perché nel titolo c'è radici, che non è passato ma è radici. Oggi più che mai c'è bisogno di ritrovare, rinnovare e soprattutto rivedere, cioè essere capaci di vedere queste radici che ci danno la forza per andare verso il futuro. 13:35, GR Extra Large, le notizie di oggi. Contratti Epifani, trattativa finita ma resto al tavolo, Confindustria replica, valuteremo se andare avanti solo con gli altri. Borse europee contrastate in attesa del voto di oggi al Senato degli Stati Uniti sul pacchetto anticrisi. In Europa Sarkozy convoca per sabato una riunione dei paesi europei che fanno parte del G8. Berlusconi torna a Napoli per fermare la protesta di Chiaiano e la nona visita per il piano rifiuti. A Torre del Greco un tiro impazzito piomba su alcune auto, feriti e un morto. E polemica sul comune di Parma dopo che uno studente ghanese ha denunciato i vigili per presunte percosse e insulti. I vigili smentiscono, ma il ragazzo insiste e racconta ancora la sua storia. Soldi in tasca ma non sanno gestirli, ecco i giovani italiani secondo una ricerca di Patti Chiari. E partiamo proprio da qua, parliamo dei giovani e del loro rapporto con il mondo dell'editoria, quindi giornali e pubblicazioni, e con il mondo delle banche. Sono due studi presentati quest'oggi. Cominciamo, Anna, a parlare dell'aspetto economico. E diciamo anche che da entrambi non ne escono proprio benissimo, ma appunto cominciando dal rapporto coi soldi, una ricerca promossa da Patti Chiari, il consorzio che riunisce 167 banche italiane sul rapporto tra adolescenti e lo sportello della banca, racconta che uno su tre dichiara di non saper gestire i propri soldi e il 48%, quindi quasi uno su due, rimane in bolletta perché spende senza pensare. Renato Mannheimer, direttore dell'Istituto di Studi sulla Pubblica Opinione, ha condotto l'indagine. Sentiamolo. Il 27% dei giovani dagli 11 ai 14 anni dichiara di avere problemi nell'uso di denaro, da una parte una difficoltà soggettiva a usare efficacemente il denaro a disposizione, dall'altra una difficoltà oggettiva verso il linguaggio finanziario. Il 43% dichiara che quando sente qualcuno parlare di soldi o investimenti non capisce nulla. I giovani, ma anche un po' gli adulti, hanno difficoltà a gestire il denaro, sono un pochino spendaccioni più degli adulti, ma mostrano di avere una certe difficoltà, un bisogno di formazione finanziaria. Il denaro è ancora un tabù, i giovani sono consapevoli di queste loro difficoltà e vedono la scuola come un veicolo di educazione finanziaria. Oltre alla scuola, anche le banche dovrebbero creare degli strumenti o una comunicazione più diretta verso i giovani, più semplice. Le banche dovrebbero essere le responsabili, una delle responsabili della cosiddetta alfabetizzazione finanziaria, cioè rendere più facile, meno ostico. Ancora oggi quando si entra in banca si ha un po' timore, paura, non si capisce bene. L'intervista era di Gioia Reffo. E dal rapporto coi soldi al rapporto invece coi libri. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oggi in occasione della terza edizione degli Stati Generali dell'Editoria, ha bacchettato i ragazzi sottolineando l'importanza della diffusione della cultura fra le giovani generazioni attraverso un'editoria che favorisca la qualità dei contenuti prodotti. Ma intanto i dati dimostrano invece tutt'altro. Dimostrano tutt'altro che gli italiani continuano a leggere poco. Sentiamo. Una sfida a tutto campo oggi, quella dei libri, per chi li scrive, per chi li pubblica, per chi li legge. Prende spunto da qui la terza edizione degli Stati Generali dell'Editoria che si tiene a Roma. Due giorni di dibattito per mettere a confronto politici, editori, insegnanti e lettori. Tutti gli attori protagonisti dell'universo del libro. Un'edizione dedicata soprattutto ai giovani e al loro rapporto con i libri. Da un lato i segnali sono incoraggianti, 150.000 giovani lettori in più all'anno in Italia nell'ultimo quinquennio. Dall'altro però il nostro paese continua a essere fanalino di coda rispetto alle medie europee. Federico Motta, presidente dell'Associazione Italiana Editori. Il problema è appunto il consumo della lettura, o meglio la lettura in questo paese. I giovani devo dire che sono meglio degli adulti, leggono di più. Il problema è che in confronto ai loro coetanei negli altri paesi europei leggono di meno. Quindi è questo su cui dobbiamo lavorare. Tra le note dolenti, la questione dei libri di testo, gli editori definiscono provvedimenti illogici e contraddittori quelli presi di recente dal governo che riguardano le ristampe e le nuove edizioni. Da Giorgia Meloni, ministro delle politiche giovanili, intervenuta poco fa, l'impegno dell'esecutivo a non aggravare le spese sull'istruzione. Vanessa Colangioli, GR 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso è il momento di Giulia Crivelli con i giornali stranieri. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Oggi partiamo dalla Russia con il ritorno sulla scena politica di Gorbaciov. Sì, è una notizia così, una notizia che sicuramente ha sorpreso molti, tanto che per esempio anche i giornali occidentali come Washington Post, che è molto attento alla Russia, più a volte del New York Times, che invece è più attento al Medio Oriente, o anche il Guardian in Gran Bretagna, ne parlano. Quello che si chiede il Washington Post è se innanzitutto sia veramente credibile questa partnership tra Gorbaciov e comunque un super miliardario come Alexander Lebedev, e l'altra cosa se a 77 anni e a 17 anni dal collasso dell'Unione Sovietica intorno a lui, così scrive il Washington Post, Gorbaciov abbia ancora poi voglia di avere un ruolo attivo oppure semplicemente voglia mettere appunto il suo nome, la sua fama al servizio di questo nuovo partito. In Gran Bretagna, Giulia, a tenere banco invece è in qualche modo uno scandalo sanitario, se così si può dire. Sì, purtroppo dico io, ma il sistema sanitario inglese sta diventando sempre più simile a quello americano, quindi molto privatizzato e con un grandissimo ruolo delle case farmaceutiche. Secondo l'Independent, l'ultimo che ha fatto proprio un'inchiesta su questo, ci sono molti casi in cui per via del costo elevatissimo delle cure anticancro le assicurazioni private o gli ospedali privati rifiutano di dare queste cure a pazienti che non danno la garanzia di poterle poi rimborsare, che non hanno un'assicurazione sufficiente, un po' come insomma racconta Michael Moore nel suo ultimo film, quindi gli svantaggi di avere un sistema troppo privatizzato. Giulia, un'altra notizia che riguarda la nostra salute, o meglio quella degli olandesi, forse questa è una notizia che adesso tu ci specificherai, che non avremmo voluto però sentire. Sì, questa viene dalla Süddeutsche Zeitung, purtroppo non solo olandese, però in realtà è una notizia che viene dall'Olanda, quindi sicuramente ci sarà anche sui giornali olandesi. Il titolo della Süddeutsche Zeitung è "Lo scandalo arriva in Europa", lo scandalo è quello della melanina che era trovata già nel latte per i bambini in Cina e adesso invece trovata in alcuni biscotti sempre per bambini che appunto sono entrati in Olanda. In questo il governo olandese ha immediatamente bloccato le importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese, però ovviamente si tratta di chiudere il famoso cancello dopo che sono già scappati i buoi. Bisogna vedere quanto di questi biscotti sono in effetti già entrati nella filiera della distribuzione commerciale. Grazie a Giulia Crivelli, lo sguardo come sempre sui giornali stranieri. Ci ritroviamo con te domani. E veniamo invece a Milano. Adesso abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di cinema, parliamo qualcosa che farà piacere agli amanti delle tecnologie, perché dal 15 al 18 ottobre a Milano si tiene SMAU, che però è stato presentato proprio quest'oggi, la 45ª edizione. Sentiamo. È ancora uno dei settori dove un prodotto può destare meraviglia e ammirazione. Un prodotto che solo qualche anno fa sembrava frutto di un racconto di fantascienza. L'informatica mostra il suo volto più innovativo a SMAU 2008, la fiera dedicata alla tecnologia come forma per semplificare la nostra vita e la gestione di un'impresa. Pier Antonio Macco, l'amministratore delegato di SMAU. Oggi ragioniamo di un utilizzo semplice delle tecnologie. L'utente si concentra su qual è un obiettivo di miglioramento della sua attività che può conseguire attraverso tecnologie informatiche. Ci sono aziende che presentano prodotti nuovi, Sony che presenta un apparato di videoconferenza in 3D molto interessante, la stessa Telecom che con i suoi business partner racconta di un autoveicolo con molta tecnologia all'interno. La fiera aprirà i battenti mercoledì 15 ottobre fino a sabato 18 negli spazi di Fiera Milano City, porterà in Italia il meglio della tecnologia mondiale. Proprio il giorno dell'inaugurazione la School of Management del Politecnico di Milano presenterà una fotografia sullo stato innovativo delle imprese italiane, un quadro a luce ed ombre di fronte a eccellenze di grandi aziende che investono nel domani adottando soluzioni all'avanguardia, resiste un nucleo di piccole e piccolissime imprese che non vedono l'innovazione come un fattore strategico per la loro crescita. Andrea Silla, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46 minuti, GR Extra Large. Borse europee contrastate in attesa del voto di oggi al Senato degli Stati Uniti sul pacchetto anticrisi. L'Europa di Sarkozy convoca per sabato una riunione dei paesi europei che fanno parte del G8. Berlusconi torna a Napoli per fermare la protesta di Chiaiano, non a visita per il piano rifiuti. Contratti, Epifani, trattativa finita, ma resto al tavolo. Confindustria replica, valuteremo se andare avanti solo con gli altri. A Torre del Greco un tir impazzito piomba su alcune auto, feriti e un morto. È accaduto questa mattina a Torre del Greco, un tir impazzito è piombato sui pedoni nella strada che collega il centro della città con l'autostrada, una strada dunque abbastanza centrale. Sono state travolte nello schianto ben 4 auto e ci sono stati 5 feriti e purtroppo anche un morto. Il camion, hanno detto i vigili urbani, aveva dei problemi ai freni. Incidente, lo avete appena sentito dai colleghi di Che Strada Fa, anche sulla A4 questa mattina. Le brutte notizie non mancano, ma quella che noi vogliamo darvi ora per una volta è una buona notizia, è proprio sul fronte degli incidenti stradali. Dimezzati quelli sulla A4 Milano-Bergamo. La quarta corsia sulla A4 nel tratto Milano-Bergamo è stata inaugurata il 1 ottobre 2007 e a 12 mesi di distanza fa sentire i suoi benefici in termini di scorrimento, inquinamento ambientale e acustico. Autostrade per l'Italia ha confrontato i dati dei primi 8 mesi del 2008 e gli stessi degli ultimi 3 anni. Risultato, i tempi di percorrenza si sono ridotti dell'84,5% in entrambe le direzioni. Ci spiega cosa significa in termini di risparmio di tempo Antonino Galatai, responsabile funzione esercizio di Autostrade per l'Italia. In una situazione di picco, tipo la mattina, ci si impiegava un'ora, oggi si impiegano 30 minuti, ma il tempo perso, come lo calcoliamo noi, viene sostanzialmente identificato appunto con questa differenza di tempo rispetto al volume di traffico che passa in quel momento. Quindi 1.200.000 ore risparmiate dal 30 di settembre 2007 ad oggi. E quali sono gli altri interventi che avete in programma? Ma adesso si dovrebbe sbloccare l'intervento della terza corsia della 9 da Milano a Como, quindi questo è sicuramente a vantaggio della Lombardia, e poi stiamo lavorando con ANAS e con la Regione per agevolare il tratto da Roma a Monza, quindi un'alternativa alta al passaggio cittadino della 4. La quarta corsia sulla Milano-Bergamo ha fatto bene anche all'aria. Le emissioni degli inquinanti sono diminuite, il livello sonoro è sceso di 4 decibel, attutendo l'inquinamento acustico. E gli effetti positivi si sono allargati all'intero tratto Milano-Brescia, dove si sono dimezzati gli incidenti e il tasso di mortalità è sceso del 36%. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E sempre stando ai numeri, secondo l'Istat mancano meno di 300.000 italiani per arrivare a 60 milioni tondi. A fine marzo in Italia eravamo 59.715.627. Se la tendenza si confermerà, dovrebbe arrivare al traguardo simbolico dei 60 milioni di italiani alla fine di quest'anno. E ora andiamo in Spagna per uno spot radiofonico che ha fatto infuriare molti spagnoli. A metterlo in onda il Ministero del Tesoro spagnolo. Como psicóloga te digo que deberías dejar ese trabajo y olvidarte de tu mujer que te absorbe toda tu energía positiva. Dejar a mi puri. Pero tú estás loca. Si mi puri es lo más grande. ¿Cómo se nota que no has probado las croquetas de mi puri? Si tu vida es como tú eliges que sea, tu inversión no debería ser igual. Compra letras del tesoro en tesoro.es. Tesoro público. Gobierno de España. Non so quanti avranno capito lo spagnolo, ve lo traduciamo subito. Dovresti lasciare questo lavoro e lasciare tua moglie, dice uno dei due interlocutori. Tua moglie che assorbe tutte le energie, dice appunto il primo interlocutore. Lasciare la mia puri, risponde il marito in questione. Si vede che non ha mai assaggiato le crocchette di puri. E poi segue l'invito a comprare i buoni del tesoro spagnoli. Ovviamente è scoppiata la polemica per il ruolo femminile descritto nello spot e spot subito ritirato. Adesso è il momento del nostro sguardo sul mondo arabo con la rassegna stampa di Adib Fateali. Per la festa di fine Ramadan, oggi molti quotidiani arabi non sono in edicola. Al-Hayat mette in primo piano una proposta del Bahrain destinata a fare discutere. Per risolvere le crisi del Medio Oriente, il ministro degli esteri del piccolo stato del Golfo chiede che Iran e Israele, assieme agli stati arabi e alla Turchia, istituiscano un unico organismo regionale. Al-Sharq al-Awsat scrive che la liberazione dei turisti europei rapiti in Egitto è avvenuta grazie ad uno stratagemma. Secondo questa nuova versione, dopo lo scontro a fuoco con le forze sudanesi, gli egiziani avrebbero convinto uno dei rapitori catturati di telefonare ai compagni e a riferire dell'ordine del capobanda di lasciare liberi gli ostaggi. Negli ultimi due anni, in Iraq, 24 bambini sono stati utilizzati da Al-Qaeda in attentati suicidi. Dati ufficiali di Baghdad, citati da Al-Sharq al-Awsat, affermano che le indagini hanno rivelato che 5 dei bambini kamikaze avevano un handicap mentale e altri 7 erano orfani vagabondi. Parliamo ora in qualche modo di noi. Qual è l'immagine dei giornalisti tra i lettori e tra, nel nostro caso, gli ascoltatori? Il futuro del giornalismo, un'analisi realizzata dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia, presentata oggi nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, su questo dice molto. Autore dello studio, il ricercatore di Astra Ricerca Enrico Finzi, l'ha sentito Adriana Fracchia. Sono molte le critiche al modo come la professione è gestita oggi, ma il quadro non è solo negativo. Quello che stupisce è l'immensa domanda di un giornalismo di qualità. Malgrado le diffuse critiche, c'è un'aspettativa e bisogno di un giornalismo serio, credibile, informato, non scandalistico, insomma, di un giornalismo vero. E adesso è il momento di Roberta Giordano con le notizie sul mondo della mondanità. Prima notizia. Naomi Campbell, alias la Venere Nera, è pronta ad abbracciare la Chiesa ortodossa, per grande che questa Chiesa possa essere. Forse perché folgorata, vi chiederete voi, sulla via di Damasco, magari in preda a una crisi mistica, ma che la top model lo fa perché gliel'ha chiesto il suo fidanzato, ovvero l'oligarca russo Vladislav Dorodin, la cui fortuna, sentite, è valutata in 1,8 miliardi di dollari. E si sa, per amore si abbraccerebbe qualsiasi cosa, dall'orso yogi a una gru idraulica, a qualsivoglia tipo di credo e di fede. Alcuni mezzi di informazione sostengono che la bizzosa top model sia una seguace di un culto magico brasiliano, vicino al voodoo, insomma. Ma lei ha proclamato più volte la sua fede in Dio, diciamo in sintesi, insomma, che non si fa mancare nulla. La Venere Nera avrebbe anche annunciato di essere pronta a sposare Dorodin, conosciuto lo scorso maggio a Cannes, a una festa di Dolce Gabbana, e anzi ha detto di volere un figlio con lui. Insomma, come direbbero le nonne, Naomi, a 38 anni suonati, ha forse deciso di mettere la testa a posto. E non malignati sui circa 2 miliardi di dollari dell'oligarca, che tanto non c'entrano niente. L'amore, quando è amore vero. Frase un po' bislacca, ma avete capito il senso. In ogni caso, a onor del vero, alla Venere Nera, con il suo lavoro da top model, i dobloni non sono mai mancati. In fondo, qualcuno in più non guasta mai. E mentre Naomi pensa a un eventuale figlio, una VIP nostrana ne stanno forse per arrivare due in un colpo solo. Lei è la conduttrice ai fornelli più famosa d'Italia, ovvero Antonella Clerici, che dopo aver atteso tanto, adesso infatti a 44 anni, avrà due bebè al prezzo di uno, una cicogna insomma biposto, e speriamo che siano femmine. E dopo due donne all'apparenza serene e appagate, dedicherei uno spazio a una simpatica sventurata che ho lasciato stare per lungo tempo, visto l'accanirsi della stampa internazionale su di lei e le sue infinite vicissitudini. Sto parlando di Britney Spears, che ce la sta mettendo tutta per risalire a galla dello Star System, per ridare insomma slancio alla sua carriera artistica. Peccato che puntualmente trapela qualche oscura rivelazione sul suo conto. Ebbene, il suo ex fidanzato Adnan Galib ha confermato l'esistenza di un videotape hard che ritrae la coppia in atteggiamenti intimi. E quello, sinceramente, che mi verrebbe da dire nel modo più accurato possibile è: chi se ne importa? Al mondo avremmo visto molto di meglio e molto di peggio. E poi, che noia tutti questi misteriosi video hard dei VIP che saltano fuori come funghi. Per una volta li vorremmo vedere sì o no passare l'aspirapolvere o cambiare uno pneumatico bucato, che sarebbe decisamente più sexy a questo punto. Galib comunque ha dichiarato: c'è un nastro ma non voglio discutere del prezzo per un eventuale compratore. Un'altra fonte ha raccontato che il video inizia con Britney nuda. Il sesso non è particolarmente vizioso, dice questa fonte, ma per tutto il tempo Brit porta una parrucca rosa. A un certo punto Adnan chiede alla Spears di togliere la parrucca, ma lei si rifiuta di farlo e dice: togliere cosa? Non c'è niente da togliere. Insomma, questo sarebbe lo scandalo. Il vero scandalo è il non fare attenzione a chi si frequenta, cara Britney, e ritrovarsi su internet magari mentre si è seduti e concentrati sul VC. Che dite, si può chiudere qui a questo punto? Roberta Giordano allora vi dà appuntamento con il gossip al prossimo mercoledì. Berlusconi torna a Napoli per fermare la protesta contro la discarica di Chiaiano e la nona visita per il piano dei rifiuti. Tocca al Senato americano oggi votare il piano Bush per la crisi dei mutui. Voteranno Obama e McCain, con l'Europa che sta a guardare. La mia storia è vera, così ribadisce lo studente ghanese che a Parma ha raccontato di essere stato picchiato e insultato. I vigili però negano. Mezzo strappo della CGIL sui contratti. Epifani, trattativa finita ma resto al tavolo. Confindustria replica: valuteremo se andare avanti solo con gli altri. Catania è salva, arrivano i fondi per evitare la bancarotta. Gli altri comuni italiani chiedono indietro i soldi dell'ICI. Il 36% di incidenti in meno sull'autostrada A4 tra Milano e Bergamo. La buona notizia dell'effetto quarta corsia. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi, in studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati. L'appuntamento come sempre per domani a partire dalle 13. Vi ricordo l'indirizzo a cui potete scriverci: extralarge@radio24.it. A domani. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.